Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius. In viaggio nel mondo senza fine della scienza con Federico Pedrocchi. Quando i dinosauri scomparirono, quanta CO2 c'era in circolazione? Cominceremo da qui. Benvenuti e benvenute a Möbius. Adesso i titoli. Misurare la CO2 per capire le sue criticità. C'è chi dice che un solo dato rende inutili le misure e quindi dobbiamo agire senza alcuna esitazione. I batteri fanno squadra. È molto raro e per la prima volta è stato scoperto in batteri vegetali da ricercatori del Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologie di Trieste. L'ipnosi come antidolorifico. Funziona, ma come mai? In realtà il meccanismo non è ancora ben interpretato. A SMAU si discuterà di città intelligenti, Smart City. I progetti sono tanti, i cambiamenti nella quotidianità delle metropoli possono essere rivoluzionari. Un paio di settimane fa si è tenuto il Festival dell'Energia a Firenze e da questa puntata vi proporremo alcune delle sue fasi più interessanti. Oggi incominciamo da un tema che potrebbe essere trattato in modo abbastanza, come dire, consolidato ormai quando si discute di CO2 e quindi del problema di riuscire a eliminarla. Beh, insomma, è veramente un bel po' di anni che si dicono un sacco di cose. Ma al Festival dell'Energia di Firenze c'è stato un dibattito nel quale le cose sono state poste in un modo abbastanza robusto, forte, con una certa provocazione. I miei ospiti per discutere di questa cosa sono Paolo Saraceno. Buonasera, Saraceno. Buonasera. Astrofisico che però da tempo si interessa di possibilità di vita sul nostro pianeta. E poi Bruno Carli. Buonasera, Carli. Buonasera. Direttore di ricerca del CNR e dell'Istituto di Fisica Applicata di Firenze. Allora, io incomincerei da lei, Saraceno, perché ricordo benissimo che all'inizio di questo dibattito, come siamo messi con la CO2, lei ha sparato un fuoco d'artificio. Quale? Beh, io ho voluto capire se la gente aveva coscienza del parametro più importante per vedere l'andamento del clima, storicamente, che è quello di quanta CO2 emettiamo rispetto a quella emessa dai vulcani. Noi sappiamo che c'è il ciclo dell'anidride carbonica e quello da cui in qualche modo dipende la vita, perché noi sappiamo che la nostra vita è basata sul carbonio, gli esseri viventi alla fine della loro vita mettono sottoterra, in qualche modo arriva ai mari e poi attraverso tutto il movimento della tettonica viene rimesso in ciclo dai vulcani. Questo ciclo ha le sue fluttuazioni, tant'è vero che noi abbiamo avuto glaciazioni, la temperatura sulla Terra è variata in maniera impressionante, ma in qualche modo questo è quello che regola il ciclo dell'anidride carbonica e in qualche modo la temperatura del nostro pianeta. Allora, questo ciclo, per capire se questo ciclo oggi è ancora in funzione, confrontare le emissioni antropiche, cioè le emissioni umane, con quelle dei vulcani. Beh, questo numero è sconvolgente. Noi emettiamo 100 volte più dei vulcani, cioè i vulcani sulla Terra, i vulcani, tutte le emissioni, le torbe quando prendono fuoco, tutte le emissioni geologiche sono stimate a emettere circa 300 milioni di tonnellate l'anno. Noi ne emettiamo 30 miliardi. Ed è un numero sconvolgente, perché se ad esempio si confronta l'ultimo un fenomeno simile che è avvenuto 54 milioni di anni fa, alla fine, su poco dopo l'estinzione dei dinosauri, che negli ultimi 100 milioni di anni ha rappresentato il massimo di temperatura, beh, in quel caso lì se ne metteva 1,5 miliardi di tonnellate l'anno. E questo in circa 1000 anni ha portato a delle estinzioni molto gravi. Quindi quello che lei ci dice, Saraceno, è che in pratica con questo dato qualunque discussione sulla misurazione qualunque è di fatto superflua, perché il confronto è evidentissimo, insomma. Questo è il dato, sì, da cui no, lei parla. Non è superfluo il cercare di capire i tempi. Bruno Carli, lei è un misuratore. Non so che cosa pensa della dichiarazione, dell'esempio, insomma, del dato che ci porta Saraceno. Potrebbe sembrare allora che in effetti, se dobbiamo decidere se agire un dato di questo genere sia tranchant, insomma, è inutile che andiamo a misurare. No, sicuramente qualsiasi decisione deve essere basata su delle misure e dei modelli. E in particolare le osservazioni fatte dallo spazio con strumentazione montata a bordo di satelliti artificiali ci hanno fornito in questi ultimi anni delle misure di parametri climatici che hanno dei meriti notevoli, hanno il merito di essere globali perché ci consentono di osservare anche zone remote difficili da raggiungere come il mezzo del Pacifico, e queste misure ci dicono in modo incontrovertibile che un cambiamento climatico è in corso. Tuttavia questo cambiamento è molto piccolo e può essere solo osservato con strumentazioni molto precise. Pertanto questa piccola entità del cambiamento riduce in parte le preoccupazioni, ma non ci deve autorizzare ad ignorare il problema. Per esempio, attualmente esistono sicuramente altre emergenze come può essere quella economica, ma proprio perché sappiamo come sia difficile risolvere i problemi quando diventa un'emergenza, dobbiamo affrontare il problema dei cambiamenti climatici adesso quando si manifestano i primi sintomi. Il programma di interventi che vogliamo andare a sviluppare per la prevenzione dei cambiamenti climatici dovremmo basarlo su una previsione affidabile di quelli che possono essere gli scenari per gli effetti per i diversi scenari. Bruno Carli e Paolo Saraceno, grazie e buon lavoro. Buonasera. Buonasera. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo al quiz che vi parlerà di batteri. I batteri sono esseri con un loro linguaggio, non lo sapevate? Bene, ve lo diciamo noi. Come comunicano fra di loro? Prima risposta, con segnali elettrici, e scriverete elettrici. Con segnali chimici, e scriverete chimici. Terza e ultima possibilità, con segnali meccanici, ovvero toccandosi, e ci scriverete meccanici. Dove? Beh, è sempre con il solito SMS al 349. 238-6666. Il libro che si vince questa settimana è School Rocks, la scuola spacca, di Antonio Incorvaia e Stefano Moriggi, edizioni San Paolo, e questo libro è offerto dalla libreria Rizzoli.it. Come parlano i batteri? Bene, lo saprete fra poco perché abbiamo un servizio, come avrete sentito dai titoli, su di loro. C'è già Barbara Gallavotti in linea con me, ciao Barbara. Ciao Federico, buonasera a tutti. E parliamo di ipnosi, non credo Barbara, se non ricordo male, che abbiamo mai trattato questo argomento a Mebius. No, non direi, abbiamo parlato tante volte di cervello, di neurologia, di cose di questo tipo, ma di ipnosi mai. Di ipnosi mai. E lo facciamo perché è uscito un articolo su una rivista importante che si occupa appunto di questo tipo di ricerche, di questa tematica. Beh, la rivista direi che è molto specializzata su questo tema, si chiama International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis. Quindi proprio sull'ipnosi. E lì che cosa dice questo studio? Beh, questo studio è stato condotto da Enrico Facco dell'Università di Padova e sostanzialmente, ovviamente la ricerca è articolata, ma il succo è che l'ipnosi è uno strumento efficace per aumentare la soglia del dolore in caso di interventi di tipo dentistico, cioè al posto della tipica anestesia che ci viene fatta quando abbiamo un intervento ai denti, potremmo forse, a quanto sembra, essere ipnotizzati con molti e meno effetti collaterali. Bene, allora per parlare di questa cosa abbiamo invitato Fabrizio Benedetti. Buonasera Benedetti. Buonasera. Ordinario di neuroscienze all'Università di Torino. Lei tenterà di ipnotizzarci così live? No, spero di no. Per telefono è un po' difficile, ma ci si può provare. Ci si può provare, ecco, ci fa fare il verso della gallina. So che gli ipnotizzatori ci tengono a far fare queste cose, queste brutte figure al pubblico. Va bene Barbara, incominciamo. Beh, per prima cosa io vorrei sapere che cos'è l'ipnosi, perché sembra molto scenica come effetto, però... Dunque, definire l'ipnosi non è facile come definire altre situazioni, altre terapie o altre circostanze. Possiamo dire... per far capire al grosso pubblico che l'ipnosi in effetti è uno stato alterato di coscienza che viene indotto tramite delle procedure particolari. Fondamentalmente le possiamo unificare queste procedure in quello che noi chiamiamo così suggestioni verbali. Queste suggestioni verbali è il rituale che viene creato intorno al soggetto, intorno al paziente, induce uno stato di coscienza alterato. Questo stato di coscienza alterato produce in qualche modo una sottomissione, lo dico fra virgolette, del paziente nei confronti del terapeuta, per cui il paziente sotto questo stato alterato di coscienza riferisce in quasi senza volontà e quindi del tutto spontaneamente quello che gli viene chiesto dal terapeuta. Però non si perde totalmente il controllo, se il terapeuta ci chiede di fare un crimine siamo sempre liberi di non farlo. Certamente sì, lo stato di sottomissione fra virgolette vuol dire che in qualche modo viene richiesto al paziente di effettuare, per esempio viene chiesto di effettuare un movimento e il paziente lo fa e successivamente se gli viene chiesto se era cosciente oppure non cosciente del movimento effettuato, molti soggetti dicono che non si ricordano, non erano coscienti del movimento che hanno fatto. Crimine no, ma per esempio raccontare anche magari delle cose intime, delicate, quello può avvenire? Dunque, lo stato alterato di coscienza consiste proprio in questo, cioè nello sviscerare da parte del terapeuta, nello sviscerare delle memorie passate che in qualche modo in uno stato normale di coscienza non si riescono a sviscerare, quindi sicuramente sì, la risposta è sì, è possibile sviscerare, è possibile tirare fuori delle memorie che altrimenti in condizioni normali non verrebbero tirate fuori. Ma funziona per tutti? Possiamo essere ipnotizzati tutti noi? Dunque non tutti, no, non tutti. Il problema, questo è un problema importante, perché dunque la prima cosa da dire è che bisogna avere una disposizione positiva nei confronti dell'ipnosi, nel senso che il paziente che va dall'ipnotista o dell'ipnotizzatore, come volete chiamarlo, deve avere fiducia nel terapeuta, deve avere fiducia nella terapia, quindi nell'ipnosi, deve crederci. È un po' quello che succede per qualsiasi psicoterapia. In altre parole, un'ipnosi, una psicoterapia funzionano solo se c'è una disposizione positiva. Direi che se uno vuole tirare fuori una percentuale grossolana, inevitabilmente le percentuali spesso sono grossolane, di quanti sono suscettibili all'ipnosi, direi che possiamo dire che circa il 20-30% dei soggetti sono abbastanza facilmente ipnotizzabili. E nel cervello succede qualcosa per cui, per esempio, facendo un'analisi, visualizzando l'attività dei neuroni, qualcuno può dire, ecco, questo soggetto è ipnotizzato? Ecco, questo è un altro punto importante, perché ovviamente non mancano, come in tutti i campi, gli scettici. Molti, infatti, si sono sempre chiesti se effettivamente questo fosse solo un effetto della suggestione, quindi delle sensazioni soggettive molto difficili da oggettivare. Recentemente con le nuove tecniche che noi chiamiamo di bioimmagine o di neuroimmagine, come la risonanza magnetica, nucleare e altre cose ancora, è possibile vedere effettivamente cosa succede nel cervello del paziente durante, per esempio, una riduzione del dolore da ipnosi. Le faccio un esempio che penso sia abbastanza chiaro per la maggior parte degli ascoltatori. Se si vuole ridurre il dolore mediante ipnosi, è bene fare una premessa semplicissima di anatomia e fisiologia. Il dolore è percepito sia come stimolo che riusciamo a localizzare in una parte del corpo, sia che riusciamo a dire quanto dura, quanto è intenso, sia invece proietta delle regioni del cervello che sono quelle che sono responsabili della sofferenza, cioè quello che è tipico del dolore, il cosiddetto connotato emotivo negativo del dolore, che mi fa scappare dal dolore. Ora, queste sono due aree del cervello totalmente diverse, cioè la parte del cervello che ci fa sentire quanto è intenso il dolore, e c'è la parte del cervello invece che ci fa soffrire. Durante l'ipnosi viene ridotta, cioè si riduce l'attività solo di quella parte del cervello che ci fa soffrire. Se lei chiede a un paziente sotto analgesia da ipnosi, senti male? Il soggetto in genere dice sì, sento il dolore, ma non mi dà fastidio. Quindi in questo senso l'ipnosi è diversa dall'effetto placebo? Dunque, l'effetto placebo e l'ipnosi, l'effetto placebo e la psicoterapia sono dibattiti di vecchia data. Tutt'oggi non siamo in grado di dire se quanta parte di effetto placebo ci sia nell'ipnosi, quanta parte di effetto placebo ci sia nella psicoterapia. Sicuramente possiamo dire che diverse regioni cerebrali, quelle che ho accennato, a cui ho accennato prima, sono lo stesso modulate durante l'effetto placebo. Quindi direi che sia nell'ipnosi che nella psicoterapia una grossa componente consiste in effetto placebo. Fabrizio Benedetti, grazie e buon lavoro nelle sue ricerche. Grazie a voi. Ciao Barbara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Hai visto, Chiara? Sì, fanno visto. Squadra. Fanno squadra, proprio come gli esseri umani, anzi forse di più. Forse di più e con maggiore efficienza. Ecco, questo senz'altro. E infatti credo che è questo che ci dirà Vittorio Venturi. Buonasera Venturi. Buonasera a tutti. Del Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologie di Trieste. Allora, i batteri fanno squadra, è qualcosa che lei mi diceva quando abbiamo preparato l'intervista, che insomma qualcosa si sapeva, questa è un'ulteriore conferma, è un meccanismo molto raro, ma comunque cominci a spiegarci. Sì, il nostro mondo della microbiologia è stato rivoluzionato circa 10 anni fa, perché fino a quel momento si pensava che i batteri erano organismi unicellulari, che ognuno lottava per la propria vita. Adesso ci rendiamo conto che i batteri non vogliono vivere da soli, ma vogliono creare comunità, fare squadra fra di loro, dentro la stessa specie e anche con altre specie. Quindi noi batteriologi abbiamo di fronte un nuovo tema, dobbiamo pensare ai nostri batteri non più come organismi unicellulari, ma dobbiamo pensare che… macroorganismo. Esattamente, chiamiamoli pure anche organismi multicellulari a questo punto. No? Quindi per molti motivi un organismo multicellulare, una comunità di batteri è molto più forte e molto più resistente anche… possiamo dire stress ambientali, come può essere mancanza d'acqua, troppo caldo o mancanza di cibo. Quindi essere insieme, essere in tanti, vorrebbe dire essere prima di tutto più forti e anche avere più probabilità di sopravvivere. Ecco. Ecco, ed entrando nello specifico, la vostra ricerca si è concentrata su appunto questi batteri che fanno squadra all'interno di un albero che conosciamo molto bene in Italia, che è l'ulivo. Esattamente, io qui a Trieste mi interesso di batteri associati alle piante in generale e mi ha affascinato questi batteri che causano questa malattia dell'ulivo, che si chiama rogna dell'ulivo, che è un patogeno che quando trova l'ulivo, che vive vicino all'ulivo, e quando l'ulivo viene danneggiato con piogge o anche qualche danno meccanico e riesce ad entrare, crea dei noduli, dei tumori molto gravi. E quello che mi ha appassionato è che dentro l'ulivo vivono anche tanti batteri che possiamo chiamare commensali, che vivono lì e non fanno né male, né bene, forse fanno anche bene. E cosa abbiamo capito? Abbiamo capito che quando arriva il patogeno e si trova, noi ci chiedevamo quando si trova davanti questi batteri, chiamiamoli commensali, cosa succede? Cioè, cosa succede quando arriva il patogeno e quelli invece che sono innocui, che generalmente vivono lì, come si comportano, come reagiscono? Come reagiscono? Allora io ci eravamo davanti messi due possibilità: uno che li elimina, oppure che magari formano una squadra, fanno delle interazioni. Quindi ci siamo messi a studiare questi due batteri, tre batteri, perché abbiamo studiato due commensali, e la cosa che abbiamo notato è che comunicano, usano per comunicare lo stesso linguaggio. I batteri comunicano come? Producendo delle sostanze chimiche e diffusibili che entrano e escono dai batteri, e ci siamo resi conto che questi batteri, quelli buoni diciamo, e il cattivo che arriva, usano lo stesso linguaggio. E usando lo stesso linguaggio che cosa significa? Che riescono in qualche modo a mettersi d'accordo usando le virgolette? Anche perché, mi scusi, qui certo. Non è che fanno solo squadra in una sola tribù, si mettono d'accordo anche con un'altra tribù di batteri. Questo è il... una società. Esattamente, e noi siamo nel nostro linguaggio scientifico, diciamo, è una comunità interspecie, cioè fra diverse specie, non certo. intraspecie, quindi fra diverse specie batteriche. E questo è affascinante, perché adesso ci troviamo davanti il batterio cattivo che arriva e comincia a comunicare. Il linguaggio che lui usa per se stesso è anche riconosciuto dai quelli, diciamo, chiamiamoli quelli innocui o buoni. Sì. E questa è stata la prima indicazione che c'è qualcosa qui, l'indicazione che forse questi formano una squadra. Poi andando avanti, andando a capire il linguaggio, poi facendo altri studi, il linguaggio, abbiamo creato dei batteri che non possono più comunicare. Facendo vari studi, inoculando anche piante, ci siamo resi conto che non solo comunicano, ma il batterio, i buoni, aiutano il cattivo a colonizzare molto meglio l'ulivo e creare meglio la malattia. Quindi adesso ci stiamo rendendo conto che c'è proprio un mutualismo fra le due specie, e con un vantaggio ci sarà un vantaggio per tutte e due alla fine, sicuramente. E però uno svantaggio per la specie che lo ospita, in questo caso l'albero, l'ulivo. Altro che, ecco. Un vantaggio per loro. Cioè è un guaio questo fare squadra. Un grosso guaio. Che però sotto il punto di vista dell'evoluzione ha un senso, perché questi batteri probabilmente si sono visti nella stessa nicchia, si sono ritrovati nella stessa nicchia per milioni di anni, e l'evoluzione ha fatto sì che pian piano hanno creato una comunicazione fra di loro, una squadra fra di loro che va a vantaggio di tutte e due. Insomma, mi sembra che è abbastanza naturale sotto il punto di vista. Certo. Lei ha già risposto al nostro quiz, che era la comunicazione che usano è di tipo chimico, ma le chiedo, potrebbe anche succedere, o che magari sia già in atto, che comunicano anche con altri, con tre, quattro, perché voi avete scoperto che è una squadra fatta da due, no? Da due entità. Però adesso abbiamo già un terzo che è presente qualche volta. Questi due, cioè il patogeno deve essere presente, perché è quello che causa il nodulo e la malattia, e quasi sempre c'è il secondo, un terzo c'è qualche volta, abbiamo visto che anche questo terzo può comunicare, può aggregarsi alla comunità, quindi Non mi sorprenderebbe che la comunità non saranno solo due, ma saranno diversi. Ecco, lei quando parla di specie intende addirittura differenti ceppi batterici o proprio specie diverse? No, specie diverse. Specie diverse. Ceppo batterio, cioè dentro la stessa specie diversi ceppi, quindi si possono avere diversi. Ecco, invece qua proprio specie diverse. Esattamente. Quindi evolutivamente importantissimo, cioè addirittura più evoluti di noi probabilmente, perché noi non riusciamo a comunicare con altre specie, nel senso che non riusciamo a parlare con un albero, con una pianta o con un gatto. Quello che lei dice è giusto, però bisogna anche ricordarsi, certo, sono sempre batteri. Sì, sto esagerando, ovviamente. Sì, un po' esagerato, però insomma c'è una differenza, le specie diverse hanno caratteristiche diverse, hanno un bagaglio genetico diverso, quindi c'è differenza. Interspecie comincia a essere interessante, la comunicazione interspecie è una cosa che dobbiamo guardare in futuro sicuramente. Siamo all'inizio di questi studi. È un po' preoccupante perché... Per noi esseri umani non è proprio una buona notizia. No, perché mi pare, c'è chi sostiene che in realtà i batteri stiano fortemente evolvendosi, quelli all'interno del nostro corpo, con funzioni che possono essere via via sempre più dannose. Purtroppo ci sono già due esempi, perché questa ricerca che stiamo facendo noi, credo che noi nelle piante siamo i primi a pubblicare questi studi di queste comunità interspecie, ma purtroppo negli umani è già stato dimostrato in due casi, uno nella bocca, specialmente nella nostra bocca, che ci sono queste squadre che rendono la malattia ancora più grave. Quindi, e poi c'è anche un'altra malattia polmonare, un'infezione polmonare, dove è anche dimostrato che i commensali già presenti nei nostri polmoni creano squadra con i patogeni che arrivano. Quindi purtroppo questo è così. Ma in questo caso voi ricercatori, scienziati eccetera, che cosa fate? Cercherete o meglio in qualche modo di interrompere queste comunicazioni? Cosa si può fare? Bravissima, questa è diciamo che l'aspetto applicativo della nostra ricerca è proprio quello, riuscire. E ci sono ditte, anche laboratori, che non è il mio caso, io sono ancora diciamo, nella ricerca di capire come comunicano, che molecole usano. Come ricerca di base. Ricerca di base, però poi ci sono dei laboratori anche dell'industria che guardano in modo molto energetico e appunto di trovare delle sostanze, dei farmaci o delle tecniche per interrompere questa comunicazione. Non è che uccidiamo il batterio, perché anche se noi con un esercito che va in guerra li togliamo tutte le forme di comunicazione, sono molto più deboli, quindi interrompere questa comunicazione renderà la comunità di batteri molto molto più debole e anche molto più suscettibile agli antibiotici o altre cure che possiamo andare a fare. Mi raccomando, fate qualcosa. Fate qualcosa, assolutamente. Certamente. Non fate riparlare. Grazie Venturi, buon lavoro, buona ricerca. Buon lavoro, arrivederci. Perché il problema è anche riuscire a portare qui della gente in gamba, ricercatori e ricercatrici dall'estero, quindi da altri paesi. E voglio parlare di questa cosa con Guido Martinelli. Buonasera Martinelli. Buonasera. Direttore della SISSA di Trieste, la scuola di studi avanzati, centro di eccellenza, e spesso appare qui a Mebius. Allora, voi state cercando di offrire delle buone opportunità per gente che arrivi da fuori, da altri paesi. Sì, diciamo, si parla spesso di fuga dei cervelli. Il problema non è tanto che i giovani italiani brillanti vadano all'estero, perché questo anzi è una gloria che riescono a ottenere posizioni prestigiose in università straniere, ma è difficile far venire gli stranieri in Italia o far rientrare gli italiani che sono andati all'estero. Quindi noi offriamo una possibilità per giovani brillanti di fare il loro proprio progetto, presentarlo alla SISSA, e naturalmente i vincitori diamo sia uno stipendio sia naturalmente i fondi per seguire le proprie ricerche. Quindi giovani ricercatori e ricercatrici stranieri agli inizi della carriera con un buon progetto, voi lo valutate e gli date modo di realizzarlo. Sì, o anche italiani che siano all'estero e hanno voglia di rientrare. Diciamo, la differenza rispetto a programmi analoghi del Ministero è che qui abbiamo messo fondi nostri, quindi fondi che abbiamo ottenuto con un'oculata gestione dei soldi della ricerca, E nonostante il periodo dal punto di vista economico sia quello che ben conosciamo, vi sembra di poter offrire qualcosa di interessante, insomma, sul piano sull'aspetto economico? Beh, interessante sì, nel senso che la possibilità di offrire degli stipendi che sono paragonabili a quelli che persone di pari maturità scientifica possono ottenere oggi a Parigi o a Berlino o in qualunque altro paese europeo. Certo. Altrimenti le persone ovviamente non ci vengono, anche se noi siamo un buon centro di ricerca apprezzato internazionalmente, non possiamo offrire stipendi molto più bassi degli altri, altrimenti non ci verrebbe nessuno. Certo. Come siamo messi coi numeri? Cioè, quanto pensate potrà essere assorbito da voi attraverso queste proposte? Beh, possiamo pensare a sperare di avere 2-3 persone all'anno con quelle cifre che riusciamo a mettere a disposizione, in cui ovviamente avranno però uno stipendio a livello europeo e quindi attraente per i ricercatori che stanno all'estero. Sì, come diceva giustamente lei, spesso si sottolinea eccessivamente questo fatto della fuga dei cervelli, il fatto per esempio che vanno via immediatamente perché subito dopo la laurea, il dottorato, non riescono a trovare il posto. Ma noi non dovremmo preoccuparci effettivamente di questo, dovremmo invece preoccuparci di avere centri di ricerca molto più multietnici, no? Di quanto lo sono attualmente, e poi certo di farli tornare. Nell'opinione pubblica su questo c'è un errore, no? Ma guardi, il problema è: possiamo offrire a un ragazzo brillante che sta all'estero delle condizioni di lavoro adeguate? Guardi, non è solo lo stipendio, è anche il fatto di avere dei laboratori che abbiano le attrezzature per poter fare la ricerca. Ha ragione, certo. Ecco, naturalmente la SISSA è un po' una scuola speciale e quindi non ci possiamo lamentare. Il 33% dei nostri studenti sono stranieri, sì. Molti addirittura fuori dall'Europa, e abbiamo un numero molto alto anche di ricercatori stranieri. Questi fondi sono per migliorare ancora di più, se vogliamo, il livello delle nostre ricerche, perché questi ragazzi che vengono da fuori portano delle competenze che magari noi non abbiamo e che possiamo sviluppare. Quindi è un suggerimento perché altri centri, altre università si impegnino fortemente per riuscire a ottenere, insomma, a realizzare questo genere di progetti. Certo, oddio, con i chiari di luna che abbiamo non è cosa facile. Esattamente, ci vogliono i fondi e se il nostro paese investisse di più della ricerca ne traerebbe un grande vantaggio. Ti ricordi che un nostro dottorando che va all'estero, alcuni dicono che un dottorando costa €500.000, forse costa €300.000, ma comunque è un investimento importante che il paese fa. E quindi avere un ritorno con persone di uguale bravura che rientrano dall'estero e vengono in Italia vuol dire recuperare anche questi investimenti. Se invece vanno solo all'estero è anche un bene oggettivo che va via. È il bene immateriale che abbiamo investito in queste persone. È del tutto evidente. Grazie Martinelli e buon lavoro. Grazie, arrivederci. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Questa settimana parte SMAU alla Fiera di Milano e uno dei temi portanti di questa edizione 2011 è quello delle Smart City, le città intelligenti, ovvero quell'insieme di interventi che, utilizzando al massimo le potenzialità delle nuove tecnologie, possono cambiare spesso in profondità la vita dei cittadini. Seguiremo queste tematiche a SMAU e voglio anche segnalarvi che sul tema delle Smart City ci saranno ben 15 seminari, una misura di questo genere, quindi sarà molto approfondito. Anche Radio 24 sarà a SMAU, quindi potete venire a trovarci. Questa sera, per parlarvi di Smart City, abbiamo il sindaco di Pisa, Marco Filippeschi. A Pisa c'è un'idea molto particolare che incornicia, possiamo dire così, i progetti della città in questo senso. Il piano regolatore digitale, e al sindaco abbiamo chiesto di spiegarcelo. Ho stanziato un primo finanziamento, ora stiamo facendo un procedimento per fare una piccola gara per individuare il progettista. Ecco, l'idea è quella di un piano regolatore che metta insieme le infrastrutture digitali, quelle sotterranee, la fibra, in città c'è già una dotazione ampia. È importante capire come può essere arricchita, chi la gestisce, se è ottimizzata, insomma c'è da lavorarci, così come per il wifi, ecco, stiamo predisponendo hotspot legati anche a un progetto di valorizzazione turistica, ma non solo. Poi la città è piena non solo di turisti ma di giovani, di studenti, di utilizzatori potenziali. E poi la parte di servizi, ecco, i servizi alla mobilità, abbiamo già una rete di controllo telematico digitale degli accessi alle porte principali della città che ci consente di gestire un piano della mobilità, un altro piano regolatore sostanzialmente. Certo. E i servizi ai cittadini, ecco, i servizi ai cittadini, quindi l'interfaccia che possa consentire, al di là degli sportelli tradizionali, nei luoghi di maggiore frequentazione, una facilitazione del rapporto con le burocrazie pubbliche, ecco, non solo con quella comunale. Per esempio, appunto, riuscire a procurarsi, a ordinarsi dei documenti vari, essendo nella segreteria di un'università piuttosto che in un atrio di un teatro, insomma, vari punti dove i cittadini passano, si trovano, si fermano. Si dovrà fare anche da casa, ma come può essere necessario fare anche quando si ritrova fuori al volo, a casa. Così come se ci riusciremo a fare dei punti dove si può lavorare affittando delle postazioni, quindi avendo anche dei luoghi di lavoro di nuova generazione, ecco, questa diffusi, è un'idea. Certo. Poter mettere su una carta dei punti, magari in zone industriali dove ci sono open space adattabili, insomma io credo che dobbiamo davvero pensare a sovrapporre al piano regolatore territoriale altri piani regolatori, quello digitale, quello dell'offerta culturale e museale. Poi l'integrazione tra i diversi piani è evidente, è sempre più evidente. Per esempio, per i controlli ambientali è chiaro che oggi le tecnologie sono tecnologie digitali, cambia tutto. Certo. Vedo in questa anche una grande occasione di sviluppo per le città, perché lavorare in questa dimensione significa mobilizzare risorse, fare grandi risparmi a regime, magari all'inizio ci vogliono investimenti, ma a regime secondo me possiamo fare grandi risparmi e rendere molto più fluido il rapporto tra i cittadini, gli operatori economici, i progettisti, no? Sì. Naturalmente noi non siamo mica, i comuni non sono mica ancora in regola, per esempio, con la digitalizzazione dei piani regolatori territoriali, no? Quindi voglio dire, noi guardiamo avanti, ma c'è sempre molto da fare. C'è da recuperare. Mi sembra, Sindaco, che il dato interessante sia quello che invece di procedere con interventi un po' separati, buoni, utili, di per esempio il wifi accessibile da una certa parte, oppure ecco la possibilità di procurarsi documentazione nei vari posti della città, quello che voi fate in più è di avere un disegno generale in modo da riuscire ad avere probabilmente un coordinamento migliore. Possiamo essere anche misurati, ecco, perché ci diamo degli obiettivi, così come si fa con un piano regolatore territoriale, urbanistico. Mm-hmm. Ci diamo degli obiettivi e possiamo essere misurati. Una città come Pisa, che è la città dell'informatica, dove insomma, nella nostra dimensione italiana la rivoluzione digitale è nata, si può dire, e dove ci sono tante forze, tanti centri di eccellenza, di ricerca, certo. Se non lo fa Pisa, chi lo deve fare? Quindi noi vorremmo esporci, poi spero sia un'esposizione positiva, ecco, che abbia un successo almeno parziale, e poi creare insieme ad altre città un network di città virtuose da questo punto di vista, anche perché credo che sempre più le azioni pubbliche debbano incentrarsi su un fattore premiante di esperienze virtuose, di frontiera. Ecco. Mm-hmm. Incominciate nel 2012? Sì, nel 2012 questo progetto, anche perché io poi ho le elezioni nel 2013, quindi vorrei portarlo fra, se mi riesce, ecco, fra i fiori all'occhiello, fra le cose nuove. Della giunta, certo, che si ripresenta. Vantare. Auguri allora per il piano digitale. Grazie e buon lavoro. Buon lavoro. Nel 1953 accadde qualcosa di molto importante nella storia della scienza. Ma non solo, fu molto importante nella storia in generale, la storia della nostra specie. E questo passaggio così significativo lo dobbiamo a due personaggi. Di uno di loro posso farvi ascoltare poche parole nella sua lingua, l'inglese, perché poi sentirete una voce che lo doppia. Chi è questo personaggio? È James Watson, che insieme a Francis Crick individuò la struttura adelica del DNA. Ascoltiamolo. So DNA had been known. L'esistenza del DNA nei cromosomi era nota sin dall'ultima parte dell'Ottocento, ma solo nel 1944 si ottenne una prova quasi decisiva del fatto che il DNA è la molecola genetica. Il breve audio che avete ascoltato è tratto da Watson e Crick, il DNA, il segreto della vita, che appartiene alla collana di DVD dedicata alla storia della scienza, la collana Beautiful Minds, la scienza raccontata dai grandi scienziati, che è prodotta dal Sole 24 Ore. Ne sono già usciti parecchi, ne usciranno ancora molti, è in edicola a partire da questo weekend e ci starà una settimana, questo dedicato appunto a Watson, Crick e al DNA. Nel proseguio, voglio farvi sentire un altro estratto, nel proseguio del DVD, Watson racconta anche alcune cose brevemente dell'origine, diciamo, dei suoi interessi per quanto riguarda la ricerca in biologia. E però lui era partito da un'altra idea per quanto riguardava la sua carriera. Ascoltiamo. Inizialmente ho studiato per diventare un naturalista. Mi interessavano gli uccelli e pensavo che avrei avuto una carriera all'aperto e avrei studiato la natura. Ma nella primavera del 1946 lessi un libro molto importante, Che cos'è la vita?, del grande fisico tedesco Erwin Schrödinger. Durante la guerra era sfuggito a Hitler andando a vivere in Irlanda e lì tenne tre conferenze al Trinity College, che vennero poi riunite in un libricino. Alla domanda che cos'è la vita, Schrödinger rispondeva che l'essenza della vita doveva trovarsi in una molecola contenente le informazioni che fanno di una cellula un batterio o una mosca, oppure un essere umano. Questo libro di Erwin Schrödinger, che fu edito in Italia, credo per la prima volta, da Boringhieri, ma che è stato anche rieditato, beh, se vi capitasse insomma di trovarlo, ve lo consiglio, è veramente un libro strepitoso, pensando appunto che fu scritto più di 60 anni fa. Vi voglio far ascoltare un altro passaggio di questo DVD che racconta, inizia il racconto dedicato a che cosa si pensava in quegli anni fosse la vita. Va notato che allora si pensava che i componenti della vita fossero gli enzimi, ma Schrödinger mise in evidenza, come naturalmente i genetisti sapevano da tempo, che la chiave è l'informazione. L'informazione per essere una mosca o un essere umano, o per essere un uomo e non una donna. Dove si trovava quell'informazione? Il famoso esperimento di Avery stabilì che stava nel DNA. Naturalmente questi DVD che qui voi ascoltate come degli audio sono invece dei DVD video, e potete vedere il signor James Watson che vi racconta la sua storia. Ci sono anche dei brevi documentari che servono a spiegare un po' alcuni passaggi che possono essere complessi. Watson e Crick, il DNA è il segreto della vita, lo trovate in edicola. Se potessi farvi vedere il filmato, vedreste una pannocchia che si interroga. Sono transgenica? No, sono transgenica. Che disperazione. Ah, improvvisamente capisci che sono transgeniche. Sono pannocchie di grano turco che si interrogano appunto su questo. E loro temono proprio di essere, loro vorrebbero diventare una tortiglia, che è il piatto base messicano, cosa alla quale loro terrebbero molto, invece che finire per essere usate come materiale per biocombustibile. Sappiamo che il biocombustibile ricavato da agricoltura pregiata come il grano turco è un grave errore. Forse però questo pericolo è evitato. Comunque, questo era un breve estratto da uno solo dei tanti filmati che a Milano al Cinema Anteo si vedranno lunedì e martedì di questa settimana che viene. Manifestazione organizzata dalla ONG Acre e da Terre di Mezzo. Si incomincia insomma ad avere iniziative che entrano nel merito dell'appuntamento di Expo 2015, tutto incentrato sui temi della sostenibilità energetica e alimentare. Sono tanti filmati proposti, trovate tutto il programma sul sito www.cumindamilano.org con la K, Cuminda. E che cosa raccontano questi filmati? Beh, intanto troverete anche dei corti digitali, delle animazioni come questa che in qualche modo vi ho fatto vedere, molto divertenti, pieni di fantasia, come la storia appunto delle pannocchie. Però ci sono anche documentari e film inchiesta che arrivano da tutto il mondo, molti dal sud del mondo, perché sappiamo che lì si gioca la partita molto difficile della sostenibilità ambientale, dell'acqua, delle coltivazioni che siano in grado di fronteggiare i processi di desertificazione. È la sfida centrale di questo secolo, sappiamo, perché poi i problemi nascono nel sud ma si riversano con grande impatto anche nel nord. Insomma, bisogna che tutti ci si tiri su le maniche, ci si metta a lavorare per risolverli, e si può fare, si può fare. Vi ricordo il sito con il programma dei filmati, www.cumindamilano.org con la K. E con le pannocchie in allarme per la loro identità chiudiamo questa puntata di Mebius. Noi ci ritroviamo qui come sempre. Buona settimana a tutti e a tutte, fra 7 giorni.